Quindi, se volete la verità, andate dentro voi stessi, amici, perché quello è l'unico posto dove troverete mai la verità vera. Da noi non potrete ottenere mai la verità. Vi diremo tutto quello che volete sentire mentendo senza vergogna. Noi vi diremo qualsiasi cazzata vogliate sentire. Mattino di Alessandro Milan. Ascolto Radio 24 la mattina e sento Milan, Alino Milan. Ma fa venire l'ulata lì chi chiude sto cazzo di Alino Milan. A questo punto la notizia è ufficiale, la frittata è fatta. Allegramente col consenso generale la frittata è fatta. Tra guastatori e giudici d'assalto, tra sceneggiate e giudici d'ascolto, praticamente la frittata è fatta. Vai Sam. Dichiaro chiusa la votazione. Favorevoli 367, contrari 194, la Camera approva. Dimostra tutta la vostra disonestà mista ad un'abbondante dose di analfabetismo democratico. Stiamo arrivando, signora Presidente, stiamo arrivando. Colleghi, viva l'Italia! Viva l'Italia degli onesti! Viva l'Italia! Questo è un Parlamento che deve rappresentare gli onesti! Non è ammesso esporre cartelli in quest'aula, tolga quella bandiera, non è... No, tolga quella bandiera, onorevole Toninelli, la tolga, grazie. Togliete questi cartelli. Concluda il suo intervento, deputato Toninelli, prego. Ha concluso, la ringrazio. Allegramente col consenso generale la frittata è fatta. Tra guastatori e giudici d'assalto. Era una bandiera italiana del deputato Toninelli, però non si può esporre nulla alla Camera, cartella, all'inizio la chiamata, no? Esponete, togliete quei cartelli, poi era una bandiera italiana, togliete la bandiera! Giorno in cui hanno approvato uno dei 500 passaggi che servono alla Camera, la riforma costituzionale. Renzi dice stiamo ottenendo dei risultati straordinari. Questo l'ha detto ai suoi, nel consueto retroscena di Maria Teresa Meli, la cantora di Renzi per il Corriere della Sera. Stiamo ottenendo risultati straordinari. Entro aprile approvazione definitiva della riforma costituzionale in Parlamento. Saranno finiti i 489 passaggi che servono ancora. Poi a ottobre referendum confermativo degli italiani. E per questo referendum girerò come un matto, ha detto al suo staff. Andrò a spiegare. E poi l'anno prossimo, 2018 per la verità, elezioni. Tutto così, tutto definito, tutto tranquilli fino al 2018. La strada è segnata, cari ascoltatori, potete occuparvi delle vostre professioni, delle vostre famiglie, dei vostri bambini, delle vostre mogli, dei vostri mariti, dei vostri amanti, dei vostri amici, delle vostre vacanze, del vostro tempo libero, le partite a tennis, è tutto sotto controllo. Vabbè, David Bowie, è giusto. Allora, salutiamo Corrado della Brianza Operosa che ci fa sapere che da un'ora è in ospedale per qualche accertamento. In bocca al lupo ovviamente Corrado, è un'ora che aspetto la tua sveglia. Porca miseria Corrado, un abbraccio ovviamente. Allora, 349-238-6666 è il numero per i vostri messaggi, WhatsApp, SMS, oh, tutto Milan, quello che volete. Oh Milan, hai anche tu WhatsApp? Ce l'abbiamo. C'è Lorenzo Nespoli in redazione, abbiamo anche lui, così come abbiamo Peter Pescapè in regia. Questo è 24 mattino, eh. È tutto sotto controllo, insomma, fino al 2018, tutto a posto. Allora, intanto voglio salutare, due grandissimi ritorni qui al Parlamento, Intanto Carla Rocchi, presidente nazionale dell'ENPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, buongiorno. Buongiorno cari, buongiorno. Come va? Il caviale si può mangiare? Io non lo mangio, mi fa impressione. Sì, no, ma dico, secondo le regole, i canoni dell'ente protezione animale, si può mangiare o è sfruttamento? Ma più che altro, sai, il caviale per essere mangiato bisogna aprire la pancia allo storione, magari se uno non se lo mangia, che devo dire? È meglio. No, non sapevo, cioè proprio, sì, certo, bisogna... E non è che lo storione fa la cacca, anche le palline. sì, bisogna proprio chiederglielo senza neanche troppa grazia, ecco. Va bene, ho capito tutto. Niente, quindi non si può. La risposta è: secondo i canoni, non si potrebbe. Non si può fare tutto a sto mondo. Sì, però sarebbe meglio di no. Sarebbe meglio di no. Va bene, insieme a Carla Rocchi ritroviamo la nostra Aurorina. Eccola qua. Anche il 2016 si apre con. Aurora, buongiorno. Come stai? Buongiorno, caro Milan, un caro saluto a te, un caro saluto ai tantissimi amici di Radio 24. Ah, Aurora, Russana, cosa stai ascoltando? C'è qualcosa di sottofondo, come sempre? La mattina comincia con un compositore tedesco. La Germania, prima di subire questa invasione afroasiatica, aveva straordinari compositori come Karl Orff, e sto ascoltando Carmina Burana. Ah, Carmina Burana. Cosa vuoi ascoltare? Sì. No, ma sì, certo, noi abbiamo messo David Bowie, fai conto. siamo proprio così, come dire, dei basici. Bello, adesso sto meglio, un po' di Carmina Burana. Meglio. No, perché ci hai fatto una premessa, Mina, stamattina un'ansia, quindi ho detto fammi un'ansia. Un po' di Carmina Burana. Vieni qui invece tu a rallegrarci e a... tranquillizzarci su Colonia. No, voglio dire di star tranquilla, la Rocchi, che verranno a sventrarci non gli storioni, ma direttamente le pance, i profughi, quindi guarda. Giusto per tranquillizzare tutti coloro agli ascolti. No, all'ascolto. Si preoccupa degli storioni sventrati, io mi preoccuperei dei cristiani sventrati. Capito, sì, Rocchi? Ma si può preoccupare delle cose anche insieme, non è che si preoccupa. Questo è vero, salviamo gli storioni e i cristiani, senza un ordine di precedenza. Salviamo senza un ordine. C'è un caviale lombardo meraviglioso, gli storioni di Calvisio, sa Calvisano, no? Vedi, ma non so. Una meraviglia, certo, c'è un caviale autoctono famoso in tutto il mondo, quello Lombardia. Vabbè. Comunque salutiamo Carlo che in questo momento ci sta ascoltando da Phuket. Sapete dov'è Phuket? Fantastica, in Thailandia. Allora, ci dice: mi accompagni tutti i giorni durante il mio pranzo in diretta da Phuket. Così ci sta ascoltando. Salutiamo tutta Phuket, ci saranno 30-35 gradi in questo momento a Phuket, immagino. Allora, dobbiamo aprire il Parlamento. A Cantù 3 gradi. Vabbè. Questa mattina Milano 4, quindi vi battiamo di un grado. Io effettivamente è da un po' di giorni che aspettavo questo momento, perché il parere di Aurora Lussana su quello che sta succedendo a Colonia, quello che è successo a Colonia in Germania, dove peraltro adesso si è scatenata la caccia all'immigrato. È vero. Sì, dramma, sai. Ma il problema è vero. Dell'Europa è il razzismo. Sai quanta gente uccisa per il razzismo. Ma è vero, ma leggi i giornali. Sì. Guarda, ieri un pakistano l'hanno preso a bottigliate, un altro l'hanno inseguito, l'hanno preso a pugni. E così a caso. Non io capisco che sei come la Merkel, innamorata di tutti i profughi che sbarcano. Perché disprezzi tutti noi nativi. Però la resistenza comincerà, Milan. Ma no. Resisteremo casa per casa. Tu hai già un moschetto o qualcosa? Beh, insomma. insomma, hai visto il linciaggio di Capodanno, questi riti tribali che sono anche pre-islamici probabilmente, no, nella loro cultura. Tu cosa pensavi, che venivano qui, no, dopo che li accoglievamo, ci trattavano belli, con tranquilli. Tu più gli dai, più la gente pretende. Si chiama sindrome del beneficiato. Fondamentalmente ci disprezzano, disprezzano voi gli uomini senza inerzia, sì. Noi donne occidentali ci disprezzano profondamente. E a Colonia ce l'hanno dimostrato. Ma, no, ma questo è vero, su questo sono. Guarda che i rapporti della polizia sono terribili, oggi pubblicati da alcuni giornali. Repubblica, lo so che l'orario non è dei migliori, ma insomma, racconti di tentativi, tentavano di infilare le dita nelle vagine delle ragazze, molte delle quali si sono salvate perché avevano i collan. Ecco, questo è il racconto brutale di cosa quello che è successo. Aspettavi? La Merkel ha ospitato 1 milione di giargianese, cosa si aspettava? Che suonassero il violino per strada e ci leggessero, che ne so, poi ci fai la definizione di giargianesi, però prima vorrei sentire da Carla Rocchi, giargianesi è arrivato come termine a Roma, come giargianesi? No, non ancora, ma noi siamo lontani dalla civiltà, ci arriva tutto in seconda mano, in seconda partita. No. Però che ne pensa Rocchi? È terribile questa cosa effettivamente. Cioè, questa è una cosa senza rimedio, in realtà. Tutti pensiamo che ci sia rimedio, che ci sia possibilità di come posso dire, di pacifico stare. In realtà sono scontri epocali, sono scontri mai visti con questa dimensione prima, è tutto da scoprire purtroppo. E poi secondo me c'è una violenza nei due fronti, proprio noi che ci difendiamo con tutte le paure e anche tutte le violenze del caso, gli altri che arrivano furibondi per essere stati cacciati o costretti a venire via, e quindi con tutte le violenze del caso. Questa storia non si risolve a tarallucci e vino, non c'è una soluzione, nessuno ce l'ha in tasca e è tutto da sperimentare. No, ma certo, ecco, però posso dire che non è neanche Aurora, non è neanche la soluzione quella di dire cacciamoli, cioè cacciamoli ma dove? Nel senso, purtroppo è una situazione che va gestita in qualche modo che non conosco, un modo che non conosco. La soluzione ancora non c'è, perché questa è una soluzione non sperimentata, le dimensioni di questo fenomeno sono tali per cui non c'è un precedente. E poi va detta anche una cosa, questa roba viene strattonata di qua e di là per i motivi più diversi, non sempre quelli di capire quello che sta succedendo. Quindi io vedo questa cosa come il vero dramma, questo scontro come il vero dramma dei nostri tempi, quelli che verranno, senza la soluzione non c'è. Non c'è. Tu, Aurora, ce l'hai una soluzione? Resistenza casa per casa, dici? Resistenza casa. A parte che cominciamo a difendere casa nostra, non far entrare certe, vedrai che quelle robe qui non succede. Già ci abbiamo i molestatori autoctoni, no? Quindi non aggiungiamo gli allogeni, nel senso che il problema ovviamente non è solo islamico, arabo, la violenza normale che coinvolge tutte le società. Però è ovvio che ormai l'immigrazione fuori controllo hai qua società pre-moderne, che hanno una visione arcaica, che è legittimo, nei loro paesi fanno questo linciaggio alle donne, soprattutto in alcune in alcune festività islamiche, è legittimo, loro nel loro paese sono quelle usanze lì. Ma è chiaro, capito Rocchi, siamo un po' zozzoni noi uomini, ma allogeni no. Ecco, questo sono gli alloggi il problema. La verità è che noi qui non siamo più abituati, anche culturalmente, nemmeno a questa aggressività maschile. Perché uno dei problemi dei nostri tempi è anche che il nostro cosiddetto maschio medio, molta della sua aggressività sessuale l'ha persa. Sì. Questo è stato male. Perché i maschi che a Colonia non sono stati in grado di difendere le donne, mi fanno ancora. Però io non voglio dire, non dico che sia una cosa. Ma in grado di difendere, adesso noi non c'eravamo. Sei in mezzo a 30 che ti aggredi. Io non lo so. Di maschi occidentali, dai, su, avercene di maschi in occidentale. Non è che sono spariti tutti. Però è un atteggiamento che noi, insomma, negli ultimi 30 anni c'è stato un ritiro degli uomini. Prima, nel primo dopoguerra, ci sono quelle foto dove tutti gli uomini si voltavano a guardare il dietro delle donne. Adesso questo è un atteggiamento che si era, e difatti io non so giudizi di qualità, però si era molto perso. Quindi adesso rivedere questa diciamo, questo nuovo fa impressione due volte. Sì, è rispuntato, ma in modo brutale, in modo aggressivo in questo caso. Allora, però tu vuoi dire qualcosa, Aurora? Ah, a proposito, definizione di giargianese, ce la vuoi dire al pubblico mondiale? Di giargiano, vabbè, come si fa? Cioè, un termine ormai universale? Non lo so, un po' dispregiativo. Sta a indicare non certo i nativi di un territorio. Gli allogeni, ecco, gli allogeni. Quelli gli che allogeni. Sono sfilati in passerella da Pizzi. Gli allogeni. L'Europa afroasiatica ormai è insomma destinata a questo. Sì. Sono gli allogeni, diciamo. Società multietnica e multirazziale che poi ci porta alle nozze di Capodanno. Vabbè, Colonia. Comunque è tutto a posto, per quel che parliamo un pochino di politica, è tutto tranquillo, è tutto sotto controllo, straordinari successi in arrivo, ti faccio sentire, vi faccio sentire Maria Elena Boschi, cara Aurora. Ah, se l'ho sentita, 8:30. L'avrai vista anche, oltre che sentita, sì. E cosa, perché sì, sei... No, la nostra madre costituente, sì, si è detto che il babbo, se verrà indagato, insomma, si troverà un avvocato. Ecco, sentiamolo qui. Se mio padre venisse indagato, ovviamente, come qualunque altro cittadino italiano, dovrebbe trovarsi un avvocato e seguire, ovviamente, tutta la vicenda. Ma questo non avrebbe un impatto su di me. Io credo che la responsabilità penale sia personale. Personale. Così la Boschi, sì. No, beccate, proprio preso quei 30 secondi che mi hanno colpiti. Vedi, come siamo. Però devo dire che anche nel 2016 le C e le S suonano perfettamente. Ma di Elena Boschi è così, quei cattolici che poi vogliono però le adozioni per le coppie omosessuali, un po' li chiamano un po' mangiosti a tradimento delle mie parti. Carla Rocchi, questo termine è arrivato dopo Giorgianesi, mangia ostia a tradimento. Noi siamo sempre qui che aspettiamo che ci arrivi la civilizzazione. Però detto questo, sì, quando nei discorsi ci sono troppi ovviamente, troppi tranquillamente, troppi sono sereno, troppi sorrisi e troppe pause, troppe cose, il risultato complessivo è il contrario. Cioè, io qualche volta amerei sentire un politico, una persona, qualcuno che dicesse sì, veramente questo è un momentaccio per me, sta roba che mi sta succedendo mi inquieta, in realtà non sono tanto sereno, la notte non dormo tanto bene, era meglio che non mi succedeva. Allora lo guarda con un po' cioè guadagnerebbe un po' di punti molto, a sentire. Ma molto di più, perché anche questa cosa, ad esempio ieri io ho seguito un'intervista della ministra che ha detto, le è stato chiesto, lei è sparita, la risposta non è stata sì, ho avuto il raffreddore, sì, sono sparito. Vacanze. Hai capito? Nel momento in cui prima tutti, non solo lei, ma tutti, ogni angolo era buono per fare capocciello e fare cucù, adesso io sono sparito, ma è tutto normale. Non sono sparito, ma stavo lavorando. I nostri interlocutori, i nostri rappresentanti partono dal presupposto che noi siamo cretini. E questo è un presupposto che può valere per una certa fascia, ma non proprio per tutti. No, ma è un presupposto simpatico, un presupposto simpatico, molto... Fa piacere, può essere apprezzato. Fa piacere essere tenuti sempre in così grande considerazione. Da chi ci governa. Va bene, dai, dobbiamo dare informazioni sul traffico, poi ritorniamo con Carla Rocchi e Aurora Lussana, tra poco. A Milano, mi vedo sentire il traffico, dai, sci, dai una botta. Caro Alessandro, mi complimento sempre per la tua trasmissione mattutina, però dopo averla sentita questa mattina mi convinco sempre di più che in Italia c'è bisogno di una dittatura, anche se temporanea. Dittatura di giusti, il problema è trovare i giusti. 5 Stelle, loro erano puri, guarda un po', è proprio vero. Il più pulito c'ha la grugna. Quando si sono munite i precedenti come la Francia, l'Israele, il Pakistan, la Cina, cioè tutto quanto quello che tiene la bomba atomica. Amici miei, io non dico che è un diritto armarsi di bomba atomica, però amici miei, avete paura della bomba atomica della Corea. La Corea, state sicuri che non la sgancerà mai per prima, lo dico io, lo dice Antonio Razzi. Lo dice Antonio Razzi, lo dice Antonio Razzi, vabbè. Vabbè, siamo con Carla Rocchi, presidente EMPA, e la nostra Aurora Lussana. Oh, sapete che si discute molto delle unioni civili, Rocchi, per le unioni civili? Sì, tranquillamente? Dovremmo farle? Ma sì, uniamoci civilmente, ci mancherebbe altro. Anche per, e anche adozioni per i gay, questo è il punto. Guardi, io posso dire una cosa. Che secondo me tu ci sta, questi sono tempi in cui ci sta tutto, le ragioni tutto. Per cui si mettono i paletti, le cose, eccetera, sono ragioni arcaiche e di difesa. Questa è una roba che va fatta, questa è una roba che sarà fatta, è una delle poche che venendo fatta è in sintonia con i tempi. Ah, capito Aurora? Tu che invece vuoi la famiglia tradizionale. le unioni civili, no, è la roba lì dell'adozione, sempre inquietante, perché sì. Insomma, senti allora questa migliore, hai presente Gennaro Migliore, quello che era comunista, poi è andato con Renzi, sì. Come tutti. Ah, perché Renzi è comunista, quindi è rimasto all'estrema sinistra. Infatti Renzi è comunista, insomma. Vabbè, senti migliore. Io sono favorevole alle adozioni, esistono pessimi genitori eterosessuali, e invece io credo che ci sarebbe, diciamo, tutto da guadagnare, soprattutto per i bambini. Capito? Esistono genitori pessimi, eterosessuali. Sì, è vero. È vero. E quindi, e via, avanti. No, dico, però insomma, sai, insomma, preventivamente... Questo di migliore è un argomento ridicolo. Sì, è una minchiata, vogliamo dire. Siccome ci sono dei pessimi genitori eterosessuali, allora. Fabio, la gente veramente si prende il cervello la mattina, non lo so, forse era sera, ma non lo so. Forse era sera. Il cervello si era bevuto. Pomeriggio, non lo so. No, beh, probabilmente lui sa come due uomini e due donne possono generare un figlio, probabilmente lui. Ma no, ma anche questo cosa c'entra? No, probabilmente lui accoppiandosi come un uomo riesce a generare una probabilmente i comunisti riescono, ti devo dire. Ma non credo. Al limite li mangiano i bambini. Tu quelli, ti sei non... accoppiato con un uomo per riprodurti? No, non ce l'ho fatta. Sei una famiglia tradizionale. Sono una famiglia. L'unico argomento serio che potrebbe spendere è che noi per anni, decenni abbiamo avuto in Italia lo scandalo micidiale degli orfanatrofi, degli istituti di assistenza, da dove non usciva un bambino per nessuna ragione, se no si perdevano i soldi. Questi forse sono argomenti più convincenti che non i pessimi genitori, che ce n'è dappertutto, omo, etero, la qualunque. Ma a proposito, cara Aurora, come va il matrimonio? Tutto bene? Urca, ragazzi, no, ho toccato. Il risolino nervoso? Ho toccato un tasto dolente. No, una meraviglia, guarda. Una meraviglia. Sposatevi un po' più giovani di me, vi do questo consiglio. Sì. Ecco che fa bene. No, fa bene. Una meraviglia. Vabbè, che bello. Che bello, ma veramente però. Ma sei sposata un anno fa. Praticamente l'abbiamo sposata qui in diretta, tra l'altro, su Radio 24. Lo ricordiamo sempre con l'onorevole Molteni della Lega. È che è uscita la classifica che è il più produttivo della Lombardia. Praticamente lui? Roma. Lui? Cioè, pur di stare lontano da te, ha una produttività, massima a Roma. Sempre a Roma. Pur di non stare a casa con la moglie. È fantastico. Vado con la Boldrini. Vado il lunedì in Parlamento. Guarda che è chiuso, onorevole Molteni. Ieri era lunedì, hanno votato, purtroppo, una pessima legge. Ecco, vedi, è una pessima legge, pure di lunedì, Parlamento aperto e il marito a Roma. Tutto complottato. Su qua Cantù a presidiare il territorio. A presidiare, col moschetto, prima che arrivi uno da Colonia. A proposito, non arrivano. Traduzione da bergamasco, a casa mia non arrivano. A proposito, perché non ti candidi a qualcosa? Fai il sindaco di Cantù lì col moschetto, perché non lo fai? No, c'hai ragione, si può fare sta cosa. Dai, sì. No, hai ragione. Da che sono diventata canturina, hai ragione, impegno civico. Ma davvero? Deciderà la Lega chi candidano a Cantù. Ho capito, però insomma, tu io sei... devo pensare prima alla famiglia, dopo vediamo. E poi al comune. Comunque i canturini sono sempre nel mio cuore, quindi perché no? Ah, attenzione, attenzione. Sai, qua c'è l'allarme furti, sicurezza, un disastro, serve qualcuno. Arriva Aurora Lussana a sistemare tutto. Però io vorrei sapere il cenone di Natale di Carla Rocchi a questo punto. Se, ah, è vero. Ovviamente tutto senza caviale, no? Allora, il cenone mio di Natale è stato in una tavola allegra di amici con qualcosa come 30 portate, sì, dove ciascuno ha mangiato quello che desiderava mangiare, no? Anche, diceva, anche pezzi di animale? Io certamente no, però capito, no, voglio dire, io non sono una rompicoglioni patentata. Quelli che arrivano sono apprendista, rompicoglioni. Quindi non è che di Natale vado a dire a una persona quello che deve fare, cosa c'ha nel piatto, cosa non c'è. Ho capito, ma se mangia, che ne so, un bel cappone. Ma io non lo mangio. Ho capito, ma davanti agli occhi, insomma. No, ma ecco, quando c'è una tavola con 30 persone si sta vicino a quelli, si come posso dire, ci si conforta tra simili. Ma poi è stato un cenone pazzesco, Io ero vicino, ero in provincia di Caserta. E devo dire, amici cari, cena stupenda, piatti fantastici di cucina tradizionale, c'erano dei peperoni ripieni ed uno delle 30 portate che erano pazzeschi, dolci, pazzeschi. E vi devo dire, ancora me lo ricordo, quindi si può mangiare di tutto benissimo, essendo contenti e stando pure in pace con le proprie... E senza rompere troppo i coglioni. E senza rompere mai i coglioni, perché quello è il presupposto, perché come rompi i coglioni non fai un proselito, ti fai due nemici. Benissimo, mi tu sembra... La causa, ma vedi, questo è l'animalismo che mi piace, si può dire animalismo? Come no? È proprio un comportamentismo. Io non rompo le scatole a nessuno in nessun settore, ma sono una nota per non litigare, perché lo ritengo una perdita di tempo, faticoso, sciupa la pelle, vengono i brufoli. Quindi si sta al mondo al meglio. Io considero le liti un peggio della vita, e quindi il peggio della vita, se posso, me lo evito. Fantastico, fantastico. Allora adesso ascolti un po' come Aurora Lussana, non so, ci sta cucinando una gallina. cosa stai facendo? Ma appunto, la mia gallina, non lo so, io qua, cioè, sì, amo la gallina bollita, cioè questa ancora del è la gallina bollita di un mese fa. No, stamattina non sto tanto bene, non riesco a cucinare, quindi si salterà il pranzo. Non lo so. Vabbè, tanto l'onorevole Molteni a Roma, infatti, lui mangia a spese nostre, paga pantalone. No, veramente mangiare se lo paga lui, ci mancherebbe. Ecco la destra. Va bene. E allora ci manderete un selfie, Carla Rocchi? Ci mandate una foto? La Rocchi è su Twitter, non mi ricordo se è su Twitter. No, io sto alla larga, io sto dappertutto, ma in incognito. Vabbè, se ci manda una foto di un cagnetto che c'è in casa, noi la pubblichiamo anche. Mando una foto dei miei gatti. Va bene, una foto dei gatti. Aurora, ci mandi una foto? Una foto? No, non sto bene, guarda, c'ho... Ma non tua, mandaci una foto del, non so, l'Alba Cantù. L'Alba Cantù, c'è già Aurora Cantù, cosa vuoi? Mi ricordate l'indirizzo? Lo mando? A Milan. Allora, mandiamolo così a 24mattino@radio24.it. Il 24 a numero è 24mattino@radio24.it. Vi abbraccio, mandatecelo. Grazie, a tra poco. Grazie. Uno, due, tre. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. Eccoci qui, cari ascoltatori, le 7:19 minuti in punto in questo momento. Buongiorno a tutti che siete affaccendati nelle vostre faccende. Ecco, vi piace? Debosciati miei, è la prima volta che vi appello così nel 2016, ma anno nuovo, vita vecchia. Debosciati miei, come state? Tutto bene? 349-238-6666 il numero per i vostri messaggi, anche WhatsApp se volete. Siamo pronti a capire che cosa ci propongono i giornali in edicola. Andiamo a sfogliarli. Questo martedì 12 gennaio, intanto i titoli e l'apertura del Sole 24 Ore dedicata al petrolio. Il petrolio manda in rosso le borse, nuovo crollo a Shanghai, meno 5,33%. Questo è il titolo di prima pagina. Poi la vicenda politica di Quarto, le polemiche sul 5 Stelle. Ecco chi sapeva, questa è l'apertura del Corriere della Sera.